cadere liberi e lenti, avvitandoci in forme guidate dai sé. Vite concentriche, giochi balistici, danze di mille perché. Fili che guidano strani giocattoli troppo occupati di sé. Dritti alla meta, senza disperdersi e senza sapere dov'è. Piccolo fiore, io luce ti farò, senza capire. Ti darò per non soffrire. Rimani stabile, dolce, piegandoti al mondo che soffia su te. Lascialo spingere su un lato debole, lascia che cada da sé. Non farti chiudere, impara a distinguere ed abbi cura di te. Senza mai limiti e senza cedere, senza fuggire da te. Piccolo fiore, le porte abbatterò, saprai sbocciare. Dal tuo cortile, senza paure, la strada segnerò per il tesoro. Ti indicherò ed il segreto. Thank you. Thank you.